Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Giovedì 27 gennaio 2011, questa è la vostra emittente preferita, si chiama Blue Radio Veneto, almeno in questo momento è la vostra emittente preferita, almeno credo sia così per tutti, insomma. C'è qualcosa che fischia, c'è qualcosa che fischia. Vabbè, sistemeremo subito e subito. Allora, dicevo, Blue Radio Veneto, la vostra emittente qui, nelle frequenze di 88.700 MHz e 94.600. Se ci volete raggiungere tramite il numero telefonico è lo 049-875-6423. Il nostro cellulare per i vostri SMS 346-23-20033, o meglio 346-23-20033. Siamo anche in streaming audio collegandosi nel sito della nostra emittente, cioè www.bluradioveneto.it, e questa sera eccezionalmente, visto che c'è anche il live questa sera, ci potete anche vedere, o meglio potete vedere gli artisti collegandovi con www.direttarockwave.tk. Buonasera da Agostino Spolaore, buonasera anche da Maurizio Calzavara. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Dico, stavolta sono nella Fossa dei Leoni, era la prima volta in 5 anni, non era mai capitato, nella Fossa dei Leoni, cioè vicino ai musicisti. Flavio è così, c'è poco da fare, di solito sempre sull'angolo, stasera sono qua. Sono molto, molto onorato di essere nella Fossa dei Leoni. Questa sera abbiamo una cantante, una ragazza, una signora, una donna che io sono molto affezionato, oltre dal punto di vista musicale, ma anche per l'amicizia che abbiamo da tempo. Ciao Barbara! Ciao! Ciao Agostino, ciao a tutti. Lei è Barbara Rubin assieme alla sua band, e se ce li vuoi presentare, vuoi farlo tu, Barbara? Sì, la mia band, per questo live c'è qualcosa che fischia. Che fischia, sì. Noi vorremmo tanto capire che cos'è, ma forse questo microfono, Vuoi appoggiarlo lì per cortesia? Sì, abbiamo qualche State problema. State soffrendo, scusate. Però questo è il bello del live, sì, sono le cuffie. Cioè, tutto diretta, tutto diretta, tutto diretta. Sì. La mia band, Simone Morandotti al pianoforte, e Andrea Giolo ai cori e Andrea Garavelli al basso fretless. Ciao. Che bel basso, proprio bello questo basso. Non diteglielo troppo perché lo dice già abbastanza lui. Proprio bello, dava una certa sensazione. Ok. Avete fatto buon viaggio? Sì. Ascoltando Andrea che ci testeva le lodi del suo basso appena ristrutturato, vedi, appena restaurato, e allora vedi, ha fatto subito colpo, adesso almeno va a casa contento. Ok, avevo ragione a parlare del basso allora. Sì infatti. No, ma effettivamente è bello, cioè, dopo con la webcam si vedrà, è molto molto interessante. Bello anche dal punto di vista, che idea, come è stato costruito? Sai qualcosa della costruzione di questo? Vai vicino al microfono. Questo basso l'ho comprato 12 anni fa. E poi, visto che ho la mania di modificare gli strumenti, ha iniziato tutta una fase dopo fase, è diventato così come adesso, ma dopo molti step di pasticci vari che gli ho fatto sopra, insomma. Bene, sicuramente è un suono, noi abbiamo provato prima, un suono perfetto. Ringraziamo Flavio stasera. Sì, Flavio è stato essenziale stasera. Sì. Grazie, sia ai suoni che anche alle telecamere qui, che ci sta dando una mano questa sera. Sì. Allora, Barbara Rubin, chi è Barbara Rubin? Innanzitutto è una cantante che ha avuto un successo enorme nel 2010, tanto da arrivare a vincere lo IEM. Sì, e tanto da arrivare anche a Blue Radio Veneto. questo è un onore per noi, Barbara. No, soprattutto per me e per noi, soprattutto per loro. No. Per noi. Sì, lo IEM è stata una bellissima esperienza e una bellissima occasione. Ho avuto la fortuna di conoscere lo staff che fa parte di una radio molto bella, Radio Web Italia, e di sapere che avevano intenzione di mettere in piedi questo bellissimo concorso per sole canzoni inedite, e così niente, mi sono presentata, ma soprattutto perché avevo capito che c'era veramente l'intenzione di promuovere, che non era il solito concorso comunque, E così niente, ho scritto una canzone quasi appositamente, sicuramente appositamente l'abbiamo arrangiata per questo concorso. Però ci sei arrivata dopo il disco. Dopo il disco, sì sì, il disco è uscito a gennaio e il pezzo, durante la promozione ho conosciuto lo staff della radio e poi il concorso, il pezzo l'abbiamo presentato entro la fine di giugno, se non ricordo male. Sì, è stato andato così. Sì, e sì, il sì. Disco invece? Raccontaci questo Under the Ice. Allora, Under the Ice è partito dal... così, dal desiderio di racchiudere una raccolta di pezzi in un album, e fortunatamente è arrivato perché ho conosciuto le persone giuste con cui farlo, che è sempre la cosa più complicata da realizzare, perché insomma, musicisti, bravissimi musicisti con tante idee, ne conosco tanti, poi in effetti in Italia e nella mia zona ce ne sono veramente tantissimi, ma non è facile mettere insieme un progetto così lungo comunque, perché incidere un album richiede comunque un anno o due di lavoro concentrato e bisogna anche trovare delle persone che hanno la pazienza di assecondare un po' le decisioni, i desideri di chi scrive i pezzi e devo dire che qui permane questo Larsen, non fateci caso, devo dire che io ho avuto una super fortuna perché ho collaborato con una decina di musicisti con un incredibile talento e una grande maturità. Il mio coproduttore è Simone Morandotti, che lui ha lo studio e la pazienza soprattutto. Soprattutto quella, vero Simone? Sì, e così niente, è nato tutto il disco, sono 11 pezzi e con un po' di buona volontà siamo riusciti a completarlo. Barba, come fa una diplomata in violino buttarsi, in senso positivo, musicalmente parlando, in un gruppo metal progressive? Che storia lunga. No, ma io sono sempre stata un po' così... Sono gli Arcanseal? Anche gli Arcanseal sono un gruppo progressive degli anni Ottanta, che sono partiti da Alessandria, insomma, di origine piemontese, che si sono distinti particolarmente nel new prog degli anni Ottanta. Infatti tutt'oggi sono menzionati un po' in tutto il mondo, dalle riviste web e non di tutto il mondo, sono ancora ricordati, per cui quella è stata un'esperienza in cui ho fatto la tastierista lì. Però tu sei diplomata in violino. Sì, sì, io suonavo anche il violino con gli Arcanseal, però vabbè, gli studi in conservatorio ti danno anche un po' di versatilità per quanto riguarda anche la musica vocale. E invece per quanto riguarda il metal e il rock, niente, è sempre stata una passione che ho sempre avuto da quando ero giovanissima, ho sempre ascoltato anche rock e hard rock e metal, contemporaneamente ascoltavo musica classica, insomma non ci sono mica barriere, alla fine è venuta fuori sta cosa qua. La musica classica ti ha guidato un grande maestro che è Fabio Biondi, praticamente è stato un tuo guida spirituale musicalmente parlando. Eh sì, sì sì sì, no, fondamentale, soprattutto per questo modo di prendere la musica, cioè senza barriere e comunque dando l'importanza alle note, alla melodia, all'armonia, qualsiasi cosa si suoni, anche perché in conservatorio si studia la musica classica a partire dal 500 fino al 900, per esatto. Cui bisogna già avere una certa apertura. Poi comunque un maestro che quando insegnava a me era molto giovane, quindi molto, molto aperto. Anche lui scriveva canzoni, tra l'altro, è polistrumentista, suona benissimo anche il pianoforte, per cui ho avuto subito così davanti l'immagine di una persona molto padrona del mestiere, della materia musicale proprio. Sì, giustamente ti hanno paragonato, la voce tua ti ha paragonata a due musiciste molto importanti in Italia. Una è Jenny Sorrenti è la sorella di Alan Sorrenti. All'inizio di carriera ha fatto 3 dischi meravigliosi di prog, ma un prog molto particolare. E Donatella del Monaco, chi è Donatella del Monaco? Donatella del Monaco è nipote del grande tenore, abita qua a Treviso, e ha inciso 2 album con un gruppo progressive dell'epoca. Quindi questa voce mi ricorda, giustamente hanno citato questi due personaggi, ma è vero, se tu senti i dischi di Jenny Sorrenti e di Donatella del Monaco, ci sono delle influenze, dei collegamenti con la tua voce, assolutamente. Sono onorata, La vogliamo ascoltare questa? Certamente, certamente. Cosa ci ascoltiamo? Vediamo se c'hai buona memoria. Ascoltiamo la traccia 9 che è Music and Love. Ok. Ok. Radio Sera. Blu Radio Sera. Rieccoci in diretta qui con Barbara Rubin e la sua band. C'è stata la prima canzone da questo Under the Ice, un disco difficile come diceva anche prima Maurizio, ma molto molto bello. Hai già un saluto da Roma, Barbara, a tutti voi. La Carmela dice che hai una voce molto calda. Grazie. Grazie mille, Carmela. Forse ti avrà ascoltato nello IEM, magari, chissà. Può darsi. Può essere. Sì, sì. Bene, ci fa piacere. Adesso, Barbara, mi dici, attraverso anche i tuoi compagni di avventura, com'è nato questo pezzo? Anche come sono stati gli arrangiamenti, visto che abbiamo qua l'autore forse degli arrangiamenti o il produttore dei suoi. Produttore sei te. Benissimo, ok. L'autrice degli arrangiamenti sono io. Benissimo. Perché in collaborazione con Simone, che comunque ha curato la parte ritmica praticamente, quella della batteria, e poi con Andrea hanno fatto la parte del basso, diciamo della band degli strumenti moderni, è stata curata da Simone e Andrea. E io ho curato la parte degli archi. Ecco, il fondamentale di questo disco, io l'ho scritto nella recensione, abbiamo scritto, è la cura degli archi, che non è semplice curare gli archi, l'arrangiamento degli archi e inserirli un canovaccio abbastanza rock, secondo me. Sì. Cosa dici? Ma... tu confermi? Sì. Confermo, confermo. Dimmi, Barbara. Io dico che fortunatamente gli archi rimangono così per magia, dopo tutti questi secoli, gli strumenti più versatili di tutto il panorama musicale e strumentale, cioè ovunque li metti stanno ed arricchiscono incredibilmente, danno comunque valore e sostegno, no? Dove non ci sono gli archi si utilizzano comunque dei suoni synth, dei suoni digitali che possono supplire a quello che normalmente fanno gli archi in un brano vocale, comunque dare sostegno. Poi logicamente gli si può affidare anche delle parti tematiche, così divertirsi un po' con le caratteristiche che hanno questi strumenti. Ma per me, io sono violinista, quindi per me non è stato abbastanza naturale, anzi desideravo anche inserire quella parte della mia preparazione musicale e comunque della mia passione musicale. Comunque rimane la musica strumentale sempre quella che mi cattura maggiormente l'attenzione, più che quella vocale, nonostante ho sempre lavorato di più come cantante. Niente, poi imbastire gli arrangiamenti è stato un bel gioco, una bella avventura. Io avevo fatto queste cose in maniera un po' virtuale quando studiavo armonia, e le ho sviluppate sul disco, niente di meglio, insomma, su della musica mia. È un gioco, il gioco ad incastro tra gli archi e l'andamento rock, è una cosa positiva secondo me, è una perfetta simbiosi, io l'ho sentito così come disco, per quello è un disco, come giustamente un critico ha scritto, non è un disco semplice, è un disco da ascoltare attentamente, da sfogliare come una margherita, attentamente, per capirne i significati più reconditi, più nascosti, secondo Bene. Me. Bene. Che bella cosa che hai detto. Io la sento in questo momento così. Vai Agostino, dimmi. No, io direi di questo punto di farli veramente sentire come sono bravi dal vivo, insomma. Qui stanno già richiedendo di cantare dal vivo, di suonare dal vivo, e allora vi vogliono sentire dal vivo. Cosa ci fate ascoltare con la prima canzone? Facciamo ascoltare Under the Ice, che è la title track. Esatto. Una volta si diceva la canzone che dà il titolo al disco. Così va benissimo. Adesso, title track, c'è sempre così. Title track, sì, è un po' più... Però è la canzone che dà il titolo al disco, mi sembra giusto. Ok, la vogliamo ascoltare? Sì. Shelter. meraviglia, che meraviglia, che grazie. Dolcezza, che, che languidità, che brava. Barbara, sei eccezionale, c'è una voce veramente, come diceva Carmela, caldissima. Grazie. Siamo in diretta, se sentite questi rumori è perché si devono posizionare. Quindi giusto. Sì, è giusto che sia disastro. Così, la diretta è bella per quello, perché ci sono i rumori chiaramente. Certo, sì. Certo. Posso dire una cosa? Nel brano del disco la tua voce è filtrata, edulcorata, ci sono degli effetti volutamente. Qua non ci sono gli effetti perché non abbiamo gli effetti, siamo dal vivo assolutamente, e non servono gli effetti. Ah, grazie. Non servono assolutamente gli effetti. È un pezzo difficile. L'apertura del disco non è un pezzo semplice, non hai scelto un pezzo semplice, un pezzo complesso, un sacco di stop e go, un sacco di fermate, poi riprendono, poi quasi si perdono. Non è che si perdono, pensiamo che qualcosa si perde, non si perde assolutamente niente, ritorna tutto nell'ovile della tua voce, assieme ai tuoi compagni, chiaramente. Certo, ma noi abbiamo scelto questo pezzo perché di tutti gli altri abbiamo fatto una delle cose più difficili del disco è scegliere la track list, cioè la lista dei pezzi sul disco, perché a parte che è una cosa importantissima, quando si registrano i pezzi sembrano tutti la hit, perché sembrano tutti il singolo, si è completamente assorbiti da quel pezzo, e intanto che si sviluppa e che si registra si dice ma senti che bello, no? A noi, insomma, registrare questo disco ci è piaciuto, non siamo quelli insoddisfatti, che siamo contenti, no? Però Under the Ice abbiamo fatto un po' di CD con sempre una sequenza diversa, con un pezzo di apertura diverso, e alla fine Under the Ice sembrava quello che proprio ti tirava subito dentro alla canzone, così ci sembrava quello più carismatico, e poi abbiamo detto ma sì, cioè è la title track, quindi mettiamola subito, giochiamoci subito quella carta lì. Perché non lo so, è il pezzo che tuttora ci piace di più, che potrebbe anche star da solo. Barbara, senti, per chiudere anche, per tornare al discorso iniziale dell'OIM, per chiudere il discorso, sì, ne approfitti anche tu, penso, per salutare una cara persona, quella che ti è stata vicina. Sì, una carissima persona, Barbara Scardilli. Ci sta ascoltando di sicuro. Sì, benissimo, la saluto. Ciao Barbara. Eccola. Ecco, c'è stata la carambata. Bene, ciao, che Barbara. Bella sorpresa. E un saluto a tutti i colleghi. Ciao Barbara. Ciao. Ecco, la Barbara è fortissima, perché veramente lei, cioè, ha fatto un lavoro all'OIM, secondo me, proprio muscolare, cioè proprio ha preso il palco e l'ha messo lì da sola, forse no, quasi. No, guarda. Però no, dietro anche il caro direttore artistico Marco Neroni. No, Marco Neroni è assolutamente il cervello e il cuore, secondo me. Sì. Proprio, sì, assolutamente. Perché è una persona che vuole assolutamente, ce la farà, secondo me, a dare una spinta un po' a questo a dar voce a questa italiana. Musica emergente. Infatti, alla fine noi ci crediamo assolutamente, e insomma noi continueremo a fare qualcosa nel nostro piccolo per l'OIM, perché è stato un grande aiuto. Poi abbiamo fatto lo showcase a Milano, io ho avuto un'ora a disposizione in un posto in cui ci vanno praticamente le star in questo momento, comunque gli emergenti, quelli di lusso, quelli che escono da X Factor, dai talent show, e c'è anche Barbara Rubin. Vabbè, ma tu, Barbara, sei un'artista completa a 360 gradi, quindi anche non, quindi alla fin fine sei una grande artista e meriti, non hai nulla da togliere rispetto ai talent show o altro. Beh, guarda, però in quel periodo lì io mi sentivo spinta bene, come magari si sentono solo quelle persone lì, per cui mi sentivo veramente facilitata e agevolata dopo aver vinto il concorso, perché mi sembrava proprio che ci fossero comunque delle possibilità. Infatti poi comunque è stata un'ottima occasione quella, e che tuttora, quando posso, sbandiero, infatti cioè, sul nostro singolo c'è IEM sopra, perché comunque è stata una bella collaborazione, spero che continui. Sì. Beh, questo anche per noi, appunto, è stata una bella collaborazione avere comunque un artista come te. come proprio abbiamo avuto anche l'inizio dello IEM, quindi per noi è stato anche comunque un onore. Bene, che bello. Barbara, grazie anche grazie della, a voi della soffiata, Ma poi bello, no? Ah, ecco, è stata una soffiata questa che sì, no, quella di fartela ascoltare in diretta è stata un'idea mia, onestamente. Bene, è sì, già un sì. po' che io e Barbara ci siamo parlati per farti questa sorpresa, tu non lo sapevi. Ecco. Vero, però Barbara? Noi dietro già ci eravamo messi d'accordo. Abbiamo fatto di quelle belle chiacchierate alle spalle, Barbara. Oh, signor. Se ti fischiavano le orecchie eravamo io e la Barbara. Per questo che sei un artista sì, 360 gradi. Sì, è vero. Poi, carino in questo momento, due Barbara da un capo all'altro dell'Italia. No? Diciamo da dove chiami, Barbara? Io attualmente dalla Sicilia. Ecco, vedi. E vai, che quindi, stavo per dire che è figata. Si può dire. Barbara, ti ringraziamo della partecipazione. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie, un bacio. Noi ci sentiamo presto, vero? Ok, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Barbara. Allora, questa era una carissima persona. Sì, sì, veramente. Che dire, è un buono staff, veramente un ottimo staff quello del concorso. Dato io molto, ne ho fatti, questo. Sì, ne ho fatti altri, però insomma, eravamo tutti lì così. Il concorso inizia e finisce, e poi ciao, nel senso, se vinci ti danno la tua coppa. E poi è un salame, una coppa è un salame. E poi vai a casa e poi dici: ma sì, ma adesso cosa succede? Niente, vieni il prossimo anno, paghi la tua quota e ripartecipi. Ritornando al disco Under the Ice, tu hai detto che avete fatto non delle discussioni, avete deciso dopo diversi ascolti di optare per questo pezzo come disco, come pezzo di inizio. Sì. Per aprire la finestra, che è importante aprire la finestra su un disco, secondo me, sì. È fondamentale, fa capire il resto del disco. Esatto, come aprire la finestra fa capire un po' che luce c'è fuori, no? Esattamente, cosa c'è dentro. Fuori, sì. Esattamente. Sì, sì, sì, che dire, cioè, il disco vabbè, è improntato un po' su delle strutture abbastanza libere, come sì. Under the Ice, no? Non è la classica... canzone, strofa, ritornello, bridge, special. È anti-ritornello qualche volta, non dico anti-ritornello, però non è una canzone classica, tra virgolette. Più che altro sì, non c'è una vera e propria strofa. È vero, non c'è una vera e propria strofa, molto libera. Molto il ritornello, forse uno dice, ah ecco, è cominciata la canzone, prima era unita. No, c'è un ritornello abbastanza melodico, stile ballad, cioè abbastanza aperto. Però non c'è una vera e propria strofa, perché Under the Ice è nato come un pezzo strumentale e pensavo di fare un pezzo strumentale con degli interventi vocali. Infatti la prima parte è così, cioè c'è questo tema di pianoforte con delle frasi cacciate qua e là e dei cori, dei controcanti che hanno un altro senso rispetto alla melodia. Invece poi dopo il primo ritornello c'è una seconda strofa che già comincia ad avere più una forma un po' melodica. Posso dire che c'è un piano quasi arrabbiato. Cioè sì sì lo, sì. Sì, lo prendi come lo fustighi, per modo di dire, chiaramente. Cioè gli dai un tono violento nel senso musicale del termine. Comincia un po', sì, un po' netto, un po' così, un po' bruscamente, no? Esattamente. Sì, in effetti è una canzone un po' arzigogolata. E può anche spiazzare, allora, così. Può anche spiazzare, ma non spiazza. Cioè, già sentito poi il pezzo si sviluppa, ma può spiazzare al momento, questo piano. Non delicato, ma non è una frase cattiva, nel senso di delicato. Cioè, è un po' diverso, ecco. Un inizio un po' diverso. Sì, di solito... si fa in modo... Comincia in una tonalità e finisce in un'altra. Esatto, quindi è complesso per quello. Comincia e quindi... in do minore e finisce in re bemolle maggiore, uno dice... E scegliere un pezzo simile è coraggioso, ripeto, per quel motivo là. Sì, però a noi ci sembrava proprio una canzone normale, quando a furia di ascoltarla ci sembrava proprio una canzone, perché poi il ritornello c'era, ma aveva una struttura abbastanza libera. Ma il prog è così, forse per quello che io sono stata... risucchiata un po' dalle riviste, dal mondo prog, anche non essendo mai stata una vera ascoltatrice di prog. L'ho suonato e l'ho cantato più che altro, ma non l'ho né studiato né ascoltato come genere preferito, perché le canzoni hanno una struttura abbastanza libera. Allora, il prog, si sa che ci sono queste suite lunghissime che hanno diversi temi. Ma la viola è prog, assolutamente prog? La viola è uno strumento enigmatico, può essere tutto e niente, è strano, e finché non la suoni e non la registri non capisci bene, ma cosa serve la viola? La viola è uno strumento cardine proprio del quartetto d'archi, cioè proprio quando non c'è non te ne rendi conto, ma quando la metti dici ma come facevo prima a farne senza? È sempre colpa di Simone, me l'ha regalata lui. Sempre lui. Faccio un piccolo break. State là, eh. Ok. Radio Veneto. Spot. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Educazione, insegnanti, alunni. A confronto ogni settimana su Blu Radio Veneto, il sabato alle 12:20. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre in compagnia di Maurizio Calzavare, del sottoscritto Agostino Spolaore, fino alle 22:30. Ricordiamo che subito dopo di noi ci sarà Alberto Prisco con la sua classifica, il suo programma di musica rock, da non perdere assolutamente anche quello. Ma intanto noi siamo con la splendida Barbara Rubin, che io ce l'ho proprio davanti, quindi la posso vedere benissimo, e la sua band. Ricordiamo, c'è al basso Andrea Garavelli, alla voce ciao, Andrea Giolo, e alla tastiera Simone Morandotti. Ciao. Ci fate ascoltare qualcosa? Io sto aspettando una canzone. Cosa ci fai ascoltare adesso? Vuoi quella lì? Voglio quella lì. Ah, no, lo so, vedi tu. Fate ma voi. Sì, possiamo fare quella. Facciamo. Vogliamo fare quella, Change We Must? Ah. Eh? Vi va bene? Sorpresa. Ci va bene. Ci va bene. Sorpresa, tanto non è che... Allora, we must. Dici due parole su questa canzone che è straordinaria. Questa canzone non è mia. Intanto, questo è importante, è una cover di Jon Anderson che abbiamo realizzato per partecipare, perché ci è stato chiesto di partecipare a una manifestazione che si chiama Earth Day Brasil, cioè la giornata della terra, che si svolgerà in Brasile il 22 aprile del 2011. In cui ci saranno diversi tipi di spettacolo e anche di conferenze per parlare principalmente della salute del pianeta, dell'ambiente, delle energie rinnovabili, e ci saranno diverse cose per promuovere questa cosa qui. A me è piaciuta tantissimo e ti volevo anche ringraziare del fatto che me l'hai fatta avere quasi in anteprima. E sì, io sì, sì. Te l'ho già fatta ascoltare, fatto già sentire. L'hai passato per primo. Ecco. Anche la versione con tutti gli artisti, sono stati contentissimi. Tra l'altro ti hanno sentito in Brasile, da oltreoceano. E questo mi ha fatto enorme piacere. Sì, infatti. Infatti no, ci siamo guadagnati altri amici così. Ti stanno ascoltando questa sera, magari li salutiamo. Penso questa proprio sera. Di sì. Un saluto al Brasile allora, agli amici brasiliani. Ciao a tutti, ciao. Allora ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo Change We Must di Jon Anderson. Oh, Subito Maurizio, io è un bel pezzo, molto bello, molto difficile anche da cantare, poi con i cori danno una certa sensazione, un quadrano bene il discorso, lo scambio di voce è una cosa sempre molto bella, molto significativa, come è venuto adesso qualche secondo fa. Chiaramente ricordiamo che questo pezzo si può trovare anche comunque su YouTube, c'è un video bellissimo sia nelle due versioni, mi sembra, sia solo con te Barbara, che sì. Sì, sì, sì. Ce ne sono tante di versioni, di queste ultime versioni, perché ogni artista, come dicevamo prima, hai visto che ci sono diversi artisti sulla versione completa, certo. Mi sembra che siano 11 artisti, e ognuno ha realizzato, come noi, un video singolarmente, che poi è stato mixato in studio in America. E quindi ci sono poi 11 versioni del video di ogni singolo artista. Qui uno si può sbizzarrire, se piace molto questa canzone si può sentire in tante maniere, in tutte le salse. Io proprio ti confesso che la salsa tua è quella che mi piace di più comunque. Grazie. Di parte forse. Perché sarà di parte probabilmente. La dieta mediterranea è sempre la migliore. Giusto, perfettamente vero questo, è fondamentale. Bellissima, bellissima comunque. Ritornando al disco, questo tuo disco, le difficoltà come sono state superate? Abbiamo parlato che la scelta della prima traccia e poi le altre tracce come sono state scelte? Soprattutto anche i pezzi strumentali, mi pare ci siano uno o due nel disco. Sì. Brevi ma significativi, un passaggio da un momento all'altro. Sì, sono dei quasi strumentali, proprio perché io ho sempre considerato le voci come degli strumenti musicali, per cui a volte mi piace proprio metterli o alla pari con gli strumenti o se no proprio dargli un ruolo da gregario, cioè proprio per sottolineare la melodia degli strumenti. Per cui ci sono questi pezzi che sono un po' così degli ibridi, non sono proprio strumentali. Allora, i due strumentali sono The Land e Before the Light, che sono due pezzi brevi che sono degli intermezzi. E, sono nati come pezzi brevi e non ho sentito il bisogno di svilupparli. Una è la seconda traccia del disco, praticamente, sì, no? Quella che fa da ponte tra Under the Ice e Angel Heartbeat. E sono nati così e non ho sentito il bisogno di dover fare un pezzo completo, una canzone, perché non so, mi sembrava di snaturarli, poi insomma non mi veniva nient'altro, e visto che il disco l'abbiamo prodotto noi, abbiamo fatto un po' le cose anche a istinto, proprio come ci piacevano. E in effetti quella di pezzo breve, di intermezzo, è la sua dimensione, quella di The Land, e così anche per l'altro, che è leggermente più lungo, che è Before the Light, che è quello che prima della trasmissione mi dicevi che sembra un po' barocca. Sì, un po' barocco, un po' da camera. A me è piaciuto particolarmente, che mi ricordava certe cose, non dico del progress, mi ricordava certe cose, un certo signore si chiamava Rick Wakeman in qualche momento, gli Strokes, cioè un po' di folk inglese rivisitato e corretto, perché qualcosa del folk inglese elisabettiano non è in questo periodo, però c'è qualcosa, c'è qualche momento, qualche indizio. Era molto bello, breve ma significativo. Perché significativo? E poi aggiunge, cioè apre alla traccia in italiano praticamente. Sì, sì, sì, infatti. Poi vabbè, forse la musica barocca un po' per... così per... Beh, tu hai un collegamento con la musica barocca, sì, bisogna dire, perché il maestro c'ha un ensemble della musica del Settecento. Esatto, Europa Galante, che esatto. Vabbè, loro sono delle superstar della musica barocca. Sì, però insomma io sono cresciuta sentendo insomma il mio maestro studiare, ma comunque con una predilezione proprio per il mio gusto personale alla musica barocca. L'ascolto tuttora continuamente, quindi mi influenza e lascio che mi influenzi, non è che mi faccio tanta resistenza. Poi comunque direi che per il progressive è abbastanza normale sentire delle influenze classiche, soprattutto bacchiane, esatto, barocche, esatto. Per cui cioè il fatto che io sono cascata nel progressive è perché secondo me musica classica più rock uguale progressive, cioè viene lo stesso anche se non l'hai mai ascoltato. Hai citato Bach, mi è venuto in mente la Reale Accademia di Musica aveva proprio Bach come contaminazione al famoso disco Progressive degli anni 70, un gruppo romano aveva proprio Bach in copertina, era la Reale Accademia di Musica, era Progressive, assolutamente Progressive. Sì, sì, sì, no, ma è una delle prime cose che per uno che non è un ascoltatore di prog salta più all'orecchio. Vero, sì. Cioè, proprio dici, vedi, c'è l'armonia che viene usata, mentre per quanto riguarda l'hard rock è molto evidente il blues, cioè una componente proprio prevalente di blues. Per quanto riguarda il prog c'è un po' più di armonia di quella lì, tonale, barocca, anche classica. Arrivata ai minimi termini col prog, si allarga all'infinito praticamente. Sì, sì, infatti, ma vabbè, poi comunque con l'inserimento degli strumenti classici un po' di collegamento alla musica classica, certo, certo. Sì, la sonorità spinge da quella parte. Quindi possiamo dire che questo disco è un giusto riferimento alla musica classica, però un giusto, solo un piccolo riferimento, la musica poi è vostra, sviluppate voi il discorso, l'arrangiamento a te e a Simone, te praticamente. Simone è lui. È sempre, mi sbaglio sempre, te Simone, praticamente. Tu che l'arrangiamento hai suonato, cioè in questo momento hai suonato il piano, il finale di questo pezzo che abbiamo sentito prima, è una specie di piccola jam session, però vai avanti, allarghi, cioè dai un certo seguito. A me piace molto improvvisare, per cui questo brano in particolare, nell'ultimo che mi ha fatto in questa cover, mi è venuto in mente appunto, visto che c'era un finale, nell'originale c'era un finale con della chitarra, un flauto che improvvisava. Ho seguito l'improvvisazione, io ho studiato molti anni di improvvisazione insieme al mio maestro Luigi Ranghino, che saluto, e mentre per il resto dell'album di Under the Ice ha inciso e registrato e composto tutto Barbara, io solo ho seguito appunto la parte batteria, cioè l'idea parte tutto da Barbara, poi sì. Chiaramente anche gli altri hanno dato una mano. Sì, sì, certo, ognuno ha dato il suo. Lei ha tagliato qua e là, per esempio, me veniva a casa, io facevo sentire qualche parte di batteria, mi diceva no, meglio così, meglio così. Ho capito. Cioè le correzioni. No, ma perché lui è, siccome è un musicista comunque con delle caratteristiche virtuosistiche mette sempre 8 note invece beh, giusto che sia così. No, vabbè, Simone poi tra l'altro non è che si è limitato a queste cose, comunque per quanto riguarda l'arrangiamento, a parte l'arrangiamento delle voci degli archi, è stata una cosa, e del pianoforte è stata una cosa abbastanza corale. In particolare il Change We Must è stato arrangiato da lui, ha fatto tutto lui, perché in quel periodo lì stavamo registrando Eyelids, il pezzo per Yem. Sì, ho capito. E allora dovevamo fare due cose in 15 giorni. Ho detto, quello lì pensaci tu. E io ho detto, io penso all'altro, perché sennò non ce la facciamo. Per cui ha fatto proprio in 3 giorni, cioè ha fatto un lavoro bellissimo. Certo. Salutiamo anche il nostro direttore artistico appena arrivato, Alberto Prisco, che grazie, anche grazie a lui siete venuti qua stasera. Bene, ok. Ciao. Adesso lo vedi, eccolo qua. Eccolo qua, è arrivato. Dopo vi saluta caramente. Allora, facciamo ascoltare ancora qualcosa, avete voglia, volete riposarvi, sì. Volete facciamo ascoltare qualcosa da disco o volete live? Quello che volete voi. Ma facciamo ancora un pezzo live. Angel Heartbeat. Cosa fai adesso dal vivo allora? Traccia 3, Angel Heartbeat. Ok. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Anche questa è una canzone da pelle d'oca. Io volevo chiedere una cosa ad Andrea. Che effetto ti fa fare sempre da voce, da contorno a Barbara? È un effetto molto bello, perché le nostre voci si fondono insieme in un modo in cui a me non è mai capitato. E quindi è una soddisfazione enorme, insomma. Sì, sì, poi vabbè, lavorare accanto a un artista di questo spessore, credo, cioè sia una cosa che... Quella che diventa rossa. Vabbè, è giusto che sia così, insomma. Dice così perché mi deve una pizza. Ah, ecco. Che allora io ho tramuttato in due spaghetti a casa mia. Allora, Barbara, ti porto i saluti e i complimenti di Katia, dalla zona di Castelfranco. Oh, grazie, mi sta ascoltando. Katia. Dice, non amo il prog, però mi piace Barbara come canta. Insomma. Ma questo è un soft prog, forse. Insomma. Poi, dai, seguici, ecco. Chiedici l'amicizia su Facebook. Sì, tra l'altro è una cantante anche lei, oltretutto. Ah, bene, sono sì. Contenta allora, ancora, insomma, doppiamente contenta. Parlando di cantanti, volevo anche nominare, salutare, non so se è in ascolto stasera perché aveva dei problemi, insomma, più importanti di figli, bambini, Marianna Caltavuturo, la voce che sentite in Angel Heartbeat sul disco. Non è la mia. Non è la sua? Perché? Era un po' Marianna lui prima. Ero Marianna. Sì. Sarà presto con noi, però una bambina piccola, per cui per adesso deve pensare a quello perché è assolutamente più importante. Comunque non è solo il backing vocal, cioè il coro, il controcanto di Angel Heartbeat, ma è anche la fotografa che ha fatto le foto del disco, proprio un artista a tutto campo, e insomma le foto del disco, quelle in bianco, le ha scattate lei nel cortile di casa sua. Sembra un set fotografico, ma è un lenzuolo, casa, in sì, realtà. No, infatti è un lenzuolo, neanche un lenzuolo veramente, però niente, lei è un artista che ha collaborato con molta buona volontà a questo disco. Anche a livello di consulenze è sempre stata molto, molto presente, per cui bisognava ricordarla. E non, vabbè, non solo lei, poi ci sono anche altri nomi sul disco, se ho tempo per dirli. Certo. Che sono Paolo Baltaro, che tra l'altro forse è già una vostra conoscenza, sì. Che ha suonato la chitarra a 12 corde, acustica, in alcune tracce. E poi c'è Alberto Rondano, chitarra elettrica, in No More Tears, e Antonella Morrone, che ha suonato il basso in una traccia, Liar. E poi chi c'è? Claudia Ravetto. Claudia Ravetto. A violoncello. Violoncello. Meraviglioso strumento. Posso non dirlo, perché Claudia Ravetto era la mia insegnante in conservatorio, è grandissima amica, bravissima persona e fantastica violoncellista, è professionista, insegnante al Conservatorio di Torino, che mi ha fatto l'enorme piacere di suonare le tracce di violoncello, per cui io sono stata felice di scrivere le linee per la mia insegnante, per cui c'era un clima bellissimo. Insomma, questo disco come caratteristica ha che è stato fatto da uno staff di amici proprio per la pelle, diciamo, proprio i conoscenti, i propri amici che si frequentano fino a basta, non poterne più, no. E io ero incerto tra scegliere la traccia che abbiamo sentito Angel esatto, che era un pezzo bellissimo, oppure la traccia numero 8. Ho scelto la traccia numero 8, quella in italiano, sì. Però ero molto incerto, che mi piaceva particolarmente anche questa, che era molto bella, e poi gli impasti vocali avevano una caratteristica molto particolare, entravano immediatamente nel sì, circolo. Sì. Cioè, poteva essere un singolo potenziale, secondo me. Se, parli sì. di Angel Heartbeat? Se ancora esistono i singoli, chiaramente. Lo indichiamo sempre come singolo. È sicuramente insieme a Ero e Suono, che abbiamo esatto. notato dagli altri Airplay, sono le due tracce più radiofoniche. Sono quelle che girano, che hanno, non so, anche un'equalizzazione che si presta a un amalgama giusto per la radio. Hanno un buon ascolto radiofonico proprio a livello di qualità, e quindi anche sì, per di noi impatto immediato. Sì, poi sì, sono le due esatto. immediate. Esattamente. Complimenti dalla zona di Venezia, Marghera. Ah, vabbè, la mia zona di origine. Silvia ti saluta, ti fa i complimenti che sei veramente brava. Dice. Grazie Silvia. Allora, cosa facciamo? Sono le 21:59, mi pare, 21:58. Sì, abbiamo ancora mezz'oretta all'incirca. Sì. E mezz'oretta qua vuol dire tante cose. Quante tracce abbiamo da sentire nel disco? Beh, il disco ne avevamo ancora due. Però se ci ma facciamo sentire un altro pezzo dal vivo, dai, che è la cosa più bella per un... Sì. Appunto. C'è proprio Ero e Suono adesso, la traccia bellissimo. Italiana. Bellissimo. Ok. Faccio un attimo una piccola pausa e poi andiamo con... va bene? Ok. Spot. Siamo noi, Ida Guglielmotti e Marco Parce, ad accompagnarvi dalle 17.06 nel viaggio virtuale di Serata in Blu. Anche quest'anno ogni giorno un tema d'apertura. La strada e i viaggiatori. Il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicologia e pedagogia. Nella seconda parte invece gli appuntamenti di cultura e spettacolo, in collaborazione con le redazioni locali. Ed in chiusura le rubriche di turismo internazionale, i libri, la scienza, piccole lezioni universitarie ed arte. Serata in Blu, da lunedì al venerdì, dalle 17.06 alle 19.00. Sulle frequenze in blu. Capito perché Maurizio ha scelto una canzone così da far ascoltare spesso e volentieri nel nostro circuito, specialmente serale. Sì, hai ragione Agostino, sai perché l'ho scelta? Perché aveva una melodia questa qua, accattivante immediatamente e da fin dal primo momento, e a una certa ora, in qualsiasi ora, ma a una certa ora ancora di più, si sente meglio, e perché l'ho scelta. Poi, trascinata da quell'intermezzo di musica classica che era proprio ideale, un aggancio giusto per sviluppare poi il pezzo in italiano. Bene, ci siamo impegnati per la tracklist, te l'ho detto. No, ma tra l'altro Ero e Suono è il brano più vecchio del disco che avete composto, il più vecchio, insomma. Sì, è praticamente stato un ripescaggio delle mie vecchie canzoni, che erano in questo stile qua, molto più italiano, melodico, un po' più sanremese, però insomma si spera nel così, la maniera positiva del termine. Ti sparo, ma vorresti fare Sanremo? Certo. Sì, sì, ma chi è che direbbe di no? C'è chi ha detto di no, però. No, infatti. Poi io per tanti anni ho sempre seguito Sanremo, ma adesso Sanremo non c'è più praticamente. Sì. Per la solita, insomma, tendenza distruttiva nei confronti della musica da parte della televisione recente, no? Sanremo, insomma, secondo me non ci vuole molto per farlo bene. Basta scegliere delle belle canzoni, riempire 4 serate di belle canzoni, ci sono tantissimi bravissimi musicisti, soprattutto emergenti, che è la parte che attualmente mi delude di più, mentre prima era quella che mi lasciava sempre stupita, cioè fino alla metà degli anni 90 venivano fuori dei nomi pazzeschi come Giorgia o la stessa Pausini, piuttosto che Maurizio Lauzi, cioè gente che veramente ti faceva venire la pelle d'oca, e poi cioè era così evidente che tutti loro portavano il loro pezzo migliore, mentre i big, boh, insomma, andavano lì per andare lì perché era l'occasione per far uscire il disco, no? Mentre gli emergenti portavano veramente delle cose molto molto molto belle. Adesso è il contrario, perché ci sono tutti questi ragazzi che, cioè, sembra che veramente, non so, abbiano fatto tutt'altro fino a mezz'ora prima. Però questa edizione c'è un grande gruppo che si chiama La Cruz, non c'è più Giovanardi, ma ci sono i La Cruz. Ah, ci sono i La Cruz. Certo, ci sono i La Cruz, è un gruppo molto significativo. Ritiro quello che ho detto nei confronti di La Cruz. Non c'è più Giovanardi, però. Giovanardi era il leader carismatico della band. Hanno scelto un'altra strada, lui ha scelto la strada solista e i La Cruz sono andati avanti. Vediamo i nuovi La Cruz come saranno. Vediamo, sicuramente. Febbraio, fra qualche giorno, praticamente. Vedremo. Ok. No, Sanremo è sempre Sanremo, perché Sanremo è Sanremo. Eh sì. Ormai è un classico, questa è una frase che dicono tutti. Sì. Eh sì. È un mondo un po' particolare, comunque, quello di Sanremo. Sì, ma poi veramente adesso, cioè, sono parole, perché anche arrivarci, se le sentono di tutti i colori su come arrivare a Sanremo, comunque sembra veramente sempre più lontano quel mondo lì. Ma noi non ce ne frega niente, nel senso che noi continuiamo a fare musica e ci crediamo. Secondo noi qualcosa riusciremo a fare, magari ci inventeremo qualcosa noi per noi, ma qualcosa succederà. Perché se uno sta lì con le mani in mano, oppure si ostina ad andare dalla parte dove vanno tutti, probabilmente non riuscirà a entrare. Noi cercheremo di trovarci una nostra strada costruita appositamente per noi. Non siamo neanche un po' presuntuosi, ma siamo un po' disperati. Allora qualcosa dobbiamo trovare. Insomma, dobbiamo attraversare il fiume o ci buttiamo. Così. Ricordiamo che state sempre ascoltando Blu Radio Veneto, la vostra emittente, in questo momento sintonizzati. Quindi www.bluradioveneto.it, il sito dove potete ascoltarci anche in streaming audio e video, cliccando su sotto la famoso rettangolo rosa, c'è una freccetta nera piccolina sulla sinistra, lì ci potete sentire anche in streaming audio. Mentre per quanto riguarda lo streaming video è diretta, rockwave.tk. Il nostro telefono in studio è lo 049 875 6423, il nostro SMS, il nostro cellulare, quindi è il 346 23 20 033 se ci volete raggiungere con qualche messaggio. Luciano da Firenze ti saluta, ti porge i suoi complimenti. Grazie, Luciano da Firenze. Luciano da Firenze. Cavoli, si trova anche lì il mio disco, se vuoi andarlo a comprare. A proposito, bravo. Esatto, dove si trova? Vai Agostino. No, stavo dicendo, dove si trova il tuo disco, dove lo possiamo magari trovare? Magari non si trova, però c'è un negozio che lo conosce, accidenti, non mi ricordo che negozio è. Mi sembra che c'è una via che si chiama Via degli Artisti, e c'è un negozio lì. Magari mi sto inventando tutto. Comunque, no, non mi sto inventando niente, era una cosa simile comunque. E comunque se mi chiede l'amicizia su Facebook glielo so dire, perché loro sono stati molto gentili, hanno accettato che gli mandassi il mio materiale, il mio promo, e quindi sanno della mia esistenza. Non è detto, ad esempio c'è un negozio d'Alessandria che ha tutto, solo che si dimentica di averlo. Lo so che gente è andata a chiedere il mio disco e hanno detto no, non ce l'abbiamo, veramente ce l'hanno perché gliel'ho mandato io. Però succede un po' di tutto al mondo, non è che Comunque si trova, su internet, sul sito della BTF, si trova il CD fisico, proprio si può comprare lì, si ordina, e se no si può comprare col download digitale su iTunes, Amazon, tutte quelle CD Baby, quelle cose lì. Visto abbiamo citato le notizie di servizio, citiamo anche se avete delle date da suonare da qualche parte adesso. Allora, il live è in via di costruzione, cioè i nostri concerti saranno un po' più avanti, sicuramente in estate. E adesso, insomma, questi live radiofonici aprono un po' la stagione, rompono un po' il ghiaccio, no? Parlando di Under the Ice. Appunto. Niente, vuol dire che ci siamo, dopo quest'anno in cui abbiamo speso tutte le energie nella promozione, nella produzione del disco, nella promozione, poi c'è stato il concorso IEM, è stato il 2010, è stato pieno di cose, di airplay radiofonici, tante recensioni, il concorso, tanti impegni di questo tipo qua. Il 2011 speriamo che sia pieno di live, di concerti. Noi suoneremo ovunque ci chiamano, proprio andremo dappertutto, non ci faremo nessun problema. E niente, il prossimo appuntamento dal vivo sarà sempre in radio comunque. La formazione sarà questa nel live, Barbara? E sarà un po' più ampia. Sì. Questa è la formazione in acustico, ci sarà anche la batteria, gli strumenti ad arco. Dipende un po' dai contesti e dallo spazio che ci sarà nel posto. No, fortunatamente i pezzi sono abbastanza versatili. Cioè, nei posti in cui non dobbiamo fare casino, si può dire casino, possiamo anche suonarli senza batteria, perché comunque... E lui potrà aumentare, divertirsi musicalmente parlando. Esatto, sì. Ecco. Sì. Ecco, si potrà divertire. Anche lui. Andrea, ti sento poco stasera, io no. Andrea. Io ascolto. Ascolta. Lui ha il basso bello, per cui gli basta quello. Sì, esatto. Un grande basso, effettivamente. Sì, infatti. Perché in radio non si vede. No, si vede. No, si vede con la webcam, si vede. abbiamo visto tutti. E si suona, si sente bene, il suono è bello. Quello. Il basso è fondamentale, siete in quattro, poi vi allargherete sicuramente, ma il basso è fondamentale in un gruppo, anche in gruppo progress, in qualsiasi gruppo il basso è fondamentale. C'è assolutamente, comanda l'armonia. Comanda l'armonia, hai detto una cosa giusta. Sì, ma poi questo bassista qui comanda in ogni caso. È il più bravo che c'è. No, questo qua è il più bravo. Io, vabbè, no, aspetta, c'è anche il bassista dell'altro gruppo, a parte... No, però lui è sicuramente uno particolare, singolare. Un personaggio singolare. Grazie. Andrea, hai voglia di comandare anche adesso l'armonia? Hai voglia di comandare? Ma volentieri. Sì. Cosa ci comandi adesso? Cosa ti comandiamo? Abbiamo infranto la scaletta, abbiamo spaccato la scaletta perché ci siamo sbagliati. Facciamo Eyelids. Stavo per dirtelo, quello che questa è la canzone che ha vinto il concorso. Sì. Ok. Allora, l'ascoltiamo. Thank you. bella, c'è una voce bellissima. Grazie. Ascoltavamo adesso con Alberto anche gli impasti, dicevamo, vocali, sono veramente molto molto belli. Grazie. Avete fatto veramente una bella canzone, ma anche che non c'entra con il disco, ma è comunque fa sempre parte di te, insomma, è la tua anima questa. Grazie, I love you. Sì, un bellissimo pezzo, i pasti, come hai detto giustamente Agostino, i pasti vocali ottimi. E proprio l'input, il quoziente superiore all'impasto vocale in questo pezzo, secondo me, è fondamentale. E poi questa apertura quasi classica che fa Simone col piano. Danza, e voi danzate sulla musica di Simone, sulla musica del piano, e impostate il discorso. Poi Barbara va avanti con la voce sua, e poi tu la avvicini, cioè cerchi di avvicinarla col coro. Praticamente. È un perfetto, pezzo perfetto. Può essere anche un pezzo che ha qualche tendenza folk, a mio parere. Leggermente folk, leggermente, non dico inglese, ma si avvicina, io l'ho sentito così, e il piano di Simone dà quella cadenza là, leggermente folk. In questo caso c'è il piano, ma poteva essere una chitarra acustica, sì, che sì, danzava praticamente. Sì, guarda. Esatto, un balzerino. Sì, i tempi in tre, quelli come tipo la mazurka, il valzer, i tempi in tre hanno un'origine folk, derivano dalle danze, esatto, e quindi riportano un po' il folk. Poi ti dico, a volte senza ascoltare un genere ti influenza soltanto perché lo ascolti di passaggio e ti rimane qualcosa. Ma il folk è un bel genere, entra dentro. Sì, Barbara comunque ha cantato anche in un gruppo di Liscio, questo dobbiamo anche ricordarlo. Sì, quindi... è stato il mio esordio. Beh, non cantavo prima. In questo pezzo esce proprio questo aspetto della tua carriera musicale. Grazie, forse, grazie. Forse non è un complimento. Fatto. No, ma assolutamente io sono una sostenitrice del genere Liscio, perché... e aggrega, e perché comunque fa passare delle belle ore tanta gente che ama un genere un po' più facile da ascoltare e da ballare, quindi va benissimo. L'unica cosa è che sarebbe bello se suonassero sempre dal vivo, sì, cosa infatti, che ultimamente non succede mai. No, infatti c'è una canzone, ora faccio una rivelazione per tutti, la stanno aspettando questa rivelazione. Comunque c'è un pezzo del disco in cui io ho fatto una parte in tre, proprio anche con la melodia, proprio ispirandomi a una canzone di Liscio. Vogliamo sapere. Non ha una canzone in particolare, però alla maniera, mi il modo, ricordava, cioè la cosa che veniva, mi ricordava una canzone di Liscio, un valzer, una cosa così. Mi piaceva il fatto che contaminasse quella canzone. L'ho lasciato. Cioè, hai recepito perché, quel momento là? Sì, ho detto, chissà, magari la rende ancora più appetibile, più ascoltabile. Certo, è una certo parte di No More Tears, che canti anche tu. So che tu, Barbara, fai parte anche di un altro gruppo. Sì, i Lore Weaver. I Lore Weaver sono una band di Alessandria, che è una città molto vicina a me, al mio paese, nonostante io abiti in provincia di Pavia. E niente, facciamo prog metal. Loro li ho conosciuti nel 2008, avevano già inciso alcune tracce per quanto riguarda la parte strumentale, gli mancavano le linee vocali, i cori che io ho aggiunto. Sono arrivata io e l'ho sentito, non avevo molto tempo, ma quando ho sentito i sample, i provini che avevano, ho detto no, preferisco che non lo faccia qualcun altro, lo faccio io, no, non c'ho tempo, comunque dico di sì. E poi mi sono trovata benissimo anche come persone. Sono fortunata perché conosco, cioè, i musicisti più di compagnia, diciamo, più non so, un po' più intelligenti. Adesso sono qua, gli faccio un complimento. Una sviolinata. No, non dico che gli altri siano tutti stupidi, però cioè, molti sono esaltati. Certo. Cioè, molti sono esaltati. Non è facile lavorare con i musicisti perché molti... Li abbiamo conosciuti. Sì, ci godono un po'. Sono prime donne. Sì, poi molti si atteggiano anche da super artisti e devono essere un po' scombinati di mente. Invece se sei scombinato, alla fine non riesci a combinare nulla. Cioè, io sembro scombinato, ma sembra. Sei una bella persona tu, lo sappiamo, anche io lo so. Insomma, vabbè, ho i miei difetti. Come tutti, come tutti, come tutti. Senti, a proposito dei difetti, ci fai sentire un difetto del disco? Sì, un difetto del disco. Che poi ci salutiamo perché sono le 22:18, quindi facciamo in tempo a fare due canzoni. Due canzoni, sì. Ok. No More Tears. No More Tears, le due più rocchettare. Scegli tu, scegli tu. Sì, No More Tears. No More Tears, è sempre tratta dal disco Under the Ice. Lei è Barbara Rubin e questa è sempre comunque la vostra emittente preferita, che si chiama Blu Radio Veneto. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. We are creatures, got a body obsession for things we don't way, just like ours promises. That we may fly away like a bird at bay. Rains to the ground doesn't tree if we know the flower that grieves. Maurizio. È stato un pezzo bellissimo. Un critico ha scritto che questo pezzo ricordava i primi Marillio. Beh, secondo me ricordava i primi Marillio solamente per il gioco con la tastiera e con il basso, perché Fisce con Barba non ha nessuna parentela, secondo me, assolutamente. Simone sì, mi però. Piace tantissimo. Anche se ti piace moltissimo. Okay. Simone sì. Simone sì con Fisce, sì. È un po' più corpulento Fisce in ogni caso. Questo è un grande pezzo. E questo gioco tra la tastiera e il basso era ideale, forse per quello ricordava un tantino in Marillio, questo gioco quasi genesiano tra la tastiera e il basso, ma più che altro, solo questo punto di vista, tac, e poi sparisce immediatamente, è vostro al 100%. Sì, sì, ma non ci offendiamo comunque, se dici già Genesis. Ci mancherebbe di dire. Bene, vabbè, bene. Senti, purtroppo. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Ma guarda. Hai visto che presto, che velocità. Velocissimo. Quando si sta bene insieme il tempo passa. Vola. Ma troppo bene. Ma veramente. Non so, eppure è così. Quando si canta poi con la maniera che canti tu e cantate voi. Poi si sente insomma che voi non, la musica la masticate tanto tutti i giorni, per cui è bello fare conversazione così, no? Si rischia quasi di andare nel linguaggio tecnico, bisogna un po' trattenersi logicamente perché non è giusto, perché insomma ognuno ha la propria materia, non ci si può aspettare che gli altri sappiano tutte le terminologie. Certo. Ma siamo qui per dirlo. Sì, sono un ignorante, Maurizio invece è bravissimo. No, nessun ignorante, Maurizio è strapitoso. No, assolutamente. No, assolutamente. A me il disco, ripeto, dicevo anche ad Agostino, è piaciuto molto perché non era un disco semplice. No, è coraggioso, è stato coraggioso. Non è un disco facile, bisogna dire le cose. Però, come ho detto all'inizio di trasmissione, si sfoglia come una margherita, lentamente ma progressivamente, e poi viene fuori la voce di Barbara e tutto il resto. Ma infatti io gliel'ho detto, anche più lo ascolti, più ti piace poi questo disco. Grazie. Ma poi tra l'altro il fatto di fare un disco un po' come piaceva a noi, io lo consiglierei a tutti quelli che fanno un disco, perché conosco tanti che cercano di attaccarsi al treno, cioè nel senso di fare le cose come si fanno oggi, oppure di attaccarsi a qualche far assomigliare il sound a qualcosa che è di moda adesso, no? Ed è comunque un flop di partenza, perché secondo me, perché quando esce è già vecchio, perché tanto adesso le cose vanno talmente in fretta che tra un mese quello che la gente ascolta, cioè, ma non per la gente, assolutamente, quello che viene proposto adesso probabilmente tra un mese non verrà più proposto, e allora tanto vale fare quello in cui proprio sia la marcia in più e quello che è, si pensa che sia il proprio forte, perché probabilmente sarà diverso da quello che fanno tutti gli altri. Non per dire che quello che facciamo noi è diverso da quello che fa, perché no, noi abbiamo il pianoforte, il violino, non è che ci siamo messi a fare rumori con qualcos'altro, però conviene fare quello per cui si è convinti, così almeno hai la soddisfazione, ma comunque la spinta per impegnarti al massimo, perché conosci bene quello che hai fatto. Se invece, ma io ho sentito tanti musicisti che avevano veramente cose da dire, che invece si sono proprio sgonfiati, abbassati e compressi solo per... Io ci ho provato per un periodo perché mi era stato consigliato e ho fatto delle canzoni che non mi ricordo neanche più da che parte cominciano, perché non me le ricordo più neanche io, perché mi venivano delle cose insignificanti. Quindi fateci sentire quello che volete fare. Siamo qua apposta. Esattamente. Allora, intanto grazie a tutti voi, grazie ad Andrea Garavelli al basso. Grazie a voi. Grazie a Simone Morandotti alla tastiera. Grazie per l'ospitalità. Grazie alla voce di Andrea Giolo. Grazie. Barbara, che dire, io spero di rivederti, di riaverti qui in studio. Ma certo. Magari col disco nuovo, ovviamente. Sì, Quando sarà, ovviamente. Sì. Ti aspettiamo, promessa? Promessissima. Grazie di essere venuta. Grazie. Maurizio. Non ho parole per dire, il disco mi è piaciuto molto e l'esibizione live ancora più del disco, e quindi è tutto dire praticamente. Bene, che bello, incoraggiamento. Io vi do appuntamento a giovedì della settimana prossima con una cantautrice che ci viene a trovare da Torino, si chiama Cristina Leoni, con il suo disco nuovo, è appena uscito, esce, anzi non è ancora uscito, esce il 29, quindi è proprio un'anteprima che abbiamo noi in radio, e, sempre con Maurizio Calzavare, con Agostino Spoloro, ovviamente sempre qui alle ore 21 a Blu Radio Veneto. Noi lasciamo lo spazio ad Alberto Prisco con la sua musica rock, la sua classifica, un caro amico, oltretutto lo conosci anche tu, avuto modo di conoscerlo. Sì, sì, certo. E Barbara, un bacio, un abbraccio e grazie ancora. Un bacione. Cosa ci fate ascoltare adesso allora? Facciamo Liar, la traccia con cui ho conosciuto Alberto, che non so se ricordi, io mi ricordo bene. E lo ricordi? Quindi la dedichiamo a tutto lo staff e ad Alberto Prisco. Quindi okay. Ti ricordi che cognome. Bene, bene. Ciao a tutti, grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao. I'm waking and coming.